Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il rave teatrale del collettivo Voci nel Deserto. All'inizio del XXI secolo l'evoluzione umana era giunta a una svolta. La selezione naturale, il processo secondo il quale il più forte, il più intelligente, il più veloce si riproduce in misura maggiore rispetto agli altri, il processo che una volta aveva favorito gli aspetti più nobili dell'uomo aveva cominciato a favorire caratteristiche diverse. La maggior parte della fantascienza dell'epoca prevedeva un futuro più civile e più intelligente, ma col passare del tempo le cose andarono nella direzione opposta. Un istupidimento generale. Com'era potuto accadere? L'evoluzione non sempre premia l'intelligenza e senza predatori naturali ad assottigliare il branco cominciò a premiare coloro che si riproducevano di più e lasciò che gli intelligenti diventassero una specie in via d'estinzione. Non capire nulla. Essere informato di tutto e non capire nulla. E questa è la sorte degli imbecilli. Preda della furia di bramosie rivali scatenate dalla stampa o dalla radio. Tutta quanta l'esistenza di uno di questi sventurati non basterebbe neppure a incamerare la metà delle notizie contraddittorie che gli vengono fornite in una settimana. No, no, no. Non sono le macchine per uccidere che mi fanno paura. La più temibile fra le macchine è quella per imbottire il cervello, per liquefare l'intelligenza. Georges Bernanos, La France contre les robots, 1947. Ma da loro non si richiedeva altro che un po' di patriottismo primitivo, a quale poter fare appello tutte le volte che era necessario fargli accettare un prolungamento dell'orario di lavoro, diminuire la razione di qualcosa, persino quando in mezzo a loro serpeggiava il malcontento, il che pure talvolta accadeva, questo scontento non aveva sbocchi, perché privi com'erano di una visione generale dei fatti, non riuscivano a convogliarlo se non su rivendicazioni assolutamente secondarie. Non riuscivano mai ad avere una comprensione dei problemi più grandi. George Orwell, 1984, scritto nel 1948. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. Anything you practice, you'll get good at. Including BS. Hold on. Ogni fatto si propone come una tragedia che non avrà mai la sua catarsi. Noi no, noi. Noi no, noi no. No. Non esistono colpevoli, esiste solo il fatto che cresce, si sviluppa, fa il suo corso e alla fine, senza soluzione, rientra nel grembo del nulla, non appena sorge un fatto più grosso all'orizzonte. I colpevoli svaniscono, i presunti colpevoli restano dentro, a tirarli fuori c'è sempre tempo. Tu mi dirai, sono casi limite, casi di pazzia momentanea. No, i pazzi da noi sono normali e anche abbastanza pazienti, basta vedere dove vengono rinchiusi. I veri pazzi sono gli altri, come diceva il filosofo, sono quelli che hanno perduto tutto fuorché la ragione e l'adoperano per costruire sistemi di intolleranza, di menzogna, di sopraffazione, ma soprattutto per imporre dogmi. E tutti ne hanno uno da imporre, costruito su letture affrettate, su vecchi rancori esistenziali, sulla loro trionfante inferiorità o sulla loro naturale volgarità o sulla teoria del massimo successo col minimo sforzo. Lo scopo è di fare paura a quelli che non la pensano come loro. Il terrore ideologico viene così mantenuto in continua riparazione. Ennio Flaiano, La solitudine del satiro, 1972. Oggi la gente legge le stesse cose, ascolta le stesse cose, vede le stesse cose, va negli stessi posti, spera e teme le stesse cose, ha le stesse libertà, gli stessi diritti, le stesse possibilità di farli valere. Per quanto siano grandi le differenze che ancora sussistono tra gli uomini, non sono nulla rispetto a quelle che sono scomparse. E il processo di assimilazione continua. Lo favoriscono tutti i mutamenti politici di questo periodo, che tendono senza eccezione a innalzare chi sta in basso, e viceversa. Lo favorisce ogni estensione dell'istruzione, perché essa sottopone tutti a influenze comuni e li pone in contatto con il complesso delle conoscenze e dei sentimenti generali. Lo favorisce il miglioramento delle comunicazioni, che pone in contatto gli abitanti di località distanti tra loro e incoraggia rapidi e frequenti spostamenti di residenza da un posto all'altro. È solo resistendo, fin dall'inizio, che si possono sconfiggere gli abusi. La pretesa che tutti si rassomiglino cresce quanto più la si nutre, se si aspetta a resistere, fino a quando la vita non sarà quasi completamente ridotta a un tipo uniforme, ogni deviazione da esso finirà con l'essere considerata empia, immorale, persino mostruosa e contro natura. Gli uomini diventano rapidamente incapaci di concepire la diversità, quando per qualche tempo si sono disabituati a vederla. John Stuart Mill, Saggio sulla libertà, 1859. Nulla sarebbe ciò che è, perché tutto sarebbe ciò che non è, e anche il contrario, ciò che è non sarebbe, e ciò che non sarebbe lo sarebbe. Capisci? Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, 1865. Non c'è naturalmente alcun motivo per cui i nuovi totalitarismi debbano assomigliare a quelli vecchi. Il governo dei manganelli, dei plotoni d'esecuzione, della carestia artificiale, dell'imprigionamento di massa, della deportazione di massa. Tutto questo è inumano, anche se recentemente pochi se ne preoccupano, ma soprattutto è inefficiente. E in un'epoca di tecnologia avanzata l'inefficienza è veramente un peccato mortale. Quindi, uno Stato totalitario davvero efficiente sarebbe quello in cui l'onnipotente potere esecutivo dei capi politici e il loro corpo manageriale controllano una popolazione di schiavi che non devono essere costretti ad esserlo con la forza perché amano la loro schiavitù. Far sì che la amino è il compito assegnato negli attuali stati totalitari ai ministri della propaganda, ai direttori di giornale e agli insegnanti. Aldous Huxley, Il mondo nuovo, 1932. Siamo grati al Washington Post, al New York Times, al Time Magazine e ad altre grandi pubblicazioni, i cui direttori hanno partecipato ai nostri meeting, per aver tenuto fede da almeno 40 anni alla loro promessa di riservatezza. Sarebbe stato impossibile per noi sviluppare il nostro progetto mondiale se fossimo stati sotto riflettori in questi anni. Ma ora il mondo è più evoluto e preparato per marciare verso un governo mondiale. La sovranità sovranazionale di una elite intellettuale e di banchieri mondiali è sicuramente preferibile alla autodeterminazione nazionale praticata nei secoli passati. David Rockefeller alla riunione del gruppo Bilderberg di Baden-Baden nel 1991. La fiction televisiva sembra sostituirsi progressivamente alla realtà del racconto giornalistico. È necessario questo per evitare che l'opinione pubblica si ribelli e che metta sotto pressione i governi che già una volta per impegnare il loro paese in un conflitto senza uscita hanno ignorato le proteste della maggioranza dei loro cittadini contrari alla guerra. L'abbiamo visto in Gran Bretagna, ma anche da noi in Italia. I nostri governanti vogliono farci vivere nel migliore dei mondi televisivi. Purtroppo questo paradiso è l'inferno della democrazia. Buonasera. Grazie Lily Gruber. Lily Gruber, serata senza filtro. Teatro Ambra Iovinelli, 14 giugno 2005. Questa democrazia così perfetta si crea da sé il suo inconciliabile nemico, il terrorismo. Vuole infatti essere giudicata in base ai suoi nemici piuttosto che in base ai suoi risultati. Ora, la storia del terrorismo la scrive lo Stato, dunque è educativa. Ma naturalmente le popolazioni spettatrici non possono sapere tutto del terrorismo, ma possono sempre saperne abbastanza da ritenere che, rispetto al terrorismo, tutto il resto dovrà sembrare loro abbastanza accettabile e comunque più razionale e democratico. Guy Debord, Commentari sulla società dello spettacolo, 1988. Lo so che è difficile, perché il terrore è proprio quello che dice di essere. La sostituzione della persuasione con la paura. Ma la paura non è un sentimento normale su cui si fonda una società. La paura è un'eccezione. La regola deve essere la fiducia. Se no, come si fa a vivere? Ma qui in Italia, quando si decide di mettere la pena di morte, come l'hanno messo in America, in Russia, in Francia, ora è il momento di finirlo. Allora non hai capito niente di quello che ha detto il giudice, perché anche la pena di morte è paura, è vero? Ma qui c'è già la pena di morte, però la decidono, la applicano solo i terroristi. E quando? Che ne vai dicendo? Quando? Per la paura di morte, se tutti i giorni che decide la vita di un qualunque uomo è terrorista, e se la metti in piazza, non ti parte, non ti parte. Questa è una storia che dimostra come la realtà, a volte, possa diventare puro e semplice orrore. Paura, eh? Paura, eh? Paura, eh? Paura, eh? Paura, eh? La forma più primitiva di società, intesa nel senso più ampio della parola, è la formazione di schiere anonime, di cui i pesci, nel loro libero mondo marino, sono l'esempio più tipico. All'interno del branco non esistono strutture di alcun tipo, non c'è nessun pesce conduttore e nessun pesce che si fa condurre, ma solo un enorme assembramento di elementi uguali. Certo, si influenzano tra di loro, certo esistono delle forme di comunicazione primitiva. Se un pesce avverte la paura di fronte a sé, comunicherà la sua paura a tutti quelli che gli stanno vicino, che si volteranno e fuggiranno con lui. Quanto poi questo sia in grado di diffondersi a tutto il branco, tanto da costringerlo di fronte al pericolo di cambiare direzione, è una questione assolutamente quantitativa ed è data da due elementi. Da quanti pesci avvertono la sensazione di paura e dalla intensità con cui l'avvertono. Questa funzione quantitativa, da un certo punto di vista anche assolutamente democratica, a maggioranza, è chiamata dagli studiosi di sociologia che la studiano induzione sociale. E sta a significare che un branco di pesci è tanto più lento nel prendere le sue decisioni quanto è più ampio il numero degli elementi che lo compongono e quanto è più forte il loro spirito gregale. Se un pesce, attratto da un qualcosa, prende e comincia a nuotare in una direzione, si accorgerà ben presto di trovarsi solo nelle acque libere e lì cadrà sotto l'influsso di tutti quegli istinti che lo costringeranno a tornare all'interno del branco. Se un numero di pesci più corposo, attratto da qualcosa che lo spinge a nuotare fuori dal branco, prende e nuota convinto in quella direzione, si trascinerà dietro tutto il branco. Ma tanto è più grande il numero dei componenti del branco, quanto più breve sarà la fuga dei fuggitivi, perché il branco cambierà direzione e loro si vedranno attratti come una calamita di nuovo all'interno o ai lati del branco. Un branco di pesciolini fittissimo, quindi, ci dà un'immagine pietosa di indecisione. È snervante vederli andare di qua, di là, senza una meta precisa. Arriviamo addirittura a dubitare del valore della democrazia e a vedere i vantaggi di una guida forte, autoritaria. Vantaggi in realtà assai poco convenienti, come ci dimostra un esperimento semplicissimo ma di un'importanza sociale enorme che fece uno studioso, Henrik van Gloost, con dei cabacelli. Costui levò a un pesciolino di quella specie la parte anteriore del cervello, dove risiedono tutte le funzioni di gruppo. Senza la parte anteriore del cervello, il cabacello è esattamente uguale ai pesci normali, ma non gliene frega niente se esce dal gruppo e nessuno lo segue. Gli viene dunque a mancare quell'esitante riguardo del pesciolino normale che, anche se vuole tanto fortemente uscire dal branco, non lo fa, perché rimane lì. Al cabacello normale di questo non gliene frega assolutamente niente. Se vede del cibo o qualcos'altro che lo attrae, lui prende e nuota convinto in quella direzione ed ecco che magicamente tutto il branco lo segue. L'animale senza cervello è diventato, proprio a causa del suo difetto, il capo indiscutibile del branco. Conrad Lorenz, L'aggressività, 1962. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene. Presidente, dovunque si volga lo sguardo, il prevalere di impulsi, riflessi, violenze istituzionali e sociali di carattere inequivocabilmente fascistico mi appare tragicamente chiaro. Se manca o sembra mancare la violenza squadristica con le sue vittime e i suoi assassini, è perché l'assassinio dell'immagine, della verità, della tolleranza, delle idee, delle stesse leggi, del loro fondamento morale, la Costituzione, lo si compie oggi ogni ora, in modo più completo, profondo, radicale di allora, attraverso l'opera dei mass media, in primo luogo la Rai TV, il cui teppismo e squadrismo non più nella sola prima rete, ma ancor più nella rete socialista e nella sua gestione presidenziale, ma anche grazie allo scatenarsi convergente con quelli dei giornali, espressione dei maggiori gruppi industriali e di poteri italiani e multinazionali, e la denigrazione del Parlamento, la tendenza a linciare chiunque non sia d'accordo. La commissione di vigilanza sulla Rai TV sta impegnando direttamente il Parlamento in un'opera piratesca e farisaica di complicità omissiva con questo quadro sovversivo di tradimento della Costituzione, di negazione della legge, della legalità, della legittimità dello scontro politico. Su questo nessun vero dibattito alla Camera, in convergenza con il sistema politico e partitocratico di stampo fascistico che si sta serrando attorno e contro gli ideali e le forze della democrazia e della legalità. Per questo presento le mie dimissioni da deputato. Marco Giacinto Pannella, lettera alla Presidente della Camera, Nilde Iotti, 9 ottobre 1989. Ho scritto in un momento così, no, che mi piaceva la fratellanza. Let's get to the real thing, motherfucker. Please wake up. L'Italia. It's my house. And if you don't like it, get the fuck out. Non voglio, in questa lettera, riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Allora mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. Se vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle patrie degli altri, allora dovrete chiarirci se in quei casi i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che dettava la loro coscienza. E poi dovrete spiegarci chi difese più la patria e l'onore della patria. Quelli che obiettarono o quelli che obbedendo resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile? E basta coi discorsi altisonanti e generici, scendete nel pratico, diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L'obbedienza ad ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili? Un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme? L'esecuzione sommaria dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione d'ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, cioè scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della patria. Una guerra di evidenti aggressioni, l'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano, le repressioni di manifestazioni popolari? Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi,

vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. Da che mondo è mondo? Perché si fanno le guerre? Per assicurarsi la pace. È raro che si faccia una guerra per arrivare alla guerra. Forse l'unico caso che la storia ricorderà è quello della Seconda Guerra Mondiale, dove pare che sia stato fatto tutto col più lodevole zelo per arrivare alla terza. Comunque speriamo che, nonostante gli sforzi generali, non ci si arrivi. Allora direte voi, se per evitare la guerra bisogna fare la guerra, per arrivare alla pace, allora, scusate, ma non sarebbe meglio rinunziare alla pace? Almeno non si farebbero le guerre. Eh no, perché se non si fanno le guerre che servono per evitare le guerre, vengono le guerre. Quindi per evitarle bisogna farle. Se non le fate, vengono. In ogni caso, guerra. Al massimo si può scegliere se fare la guerra che si vorrebbe evitare o quella che serve per evitarla. In ogni caso, non si è mai vista una pace che venga durante una pace. Al contrario, sono le guerre che vengono durante la pace. La pace è come la salute, uno stato di cose che non promette niente di buono. Achille Campanile, conferenza tenuta presso il Circolo Ufficiali il 16 dicembre del 1950. Oh Zeus, il più potente degli dèi, noi ti imploriamo, ci serve il tuo aiuto. Zeus, grande Zeus, ascoltaci, ascoltaci, noi ci rivolgiamo a te. Qui Zeus, in questo momento non sono in casa, ma potete lasciare un messaggio e sarete richiamati. Per favore parlate solo dopo il beep. Chiama appena rientri, ci serve aiuto. Volevo dire al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stava passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, c'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo. Volevo dire al mondo. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, c'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, ti chiedi il come mai, ti chiedi quasi, dov'è la risposta? La risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, c'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, c'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, c'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Tutto quanto, qua non sappiamo più. Ci sono solo due modi per evitare un mondo di 10 miliardi di persone. O i tassi di natalità adesso scendono velocemente, oppure debbono salire i tassi di mortalità. Non c'è altro modo. Ci sono ovviamente tanti modi per far salire i tassi di mortalità. nell'epoca termonucleare si può fare in maniera molto veloce e decisiva. Carestie ed epidemie sono da sempre gli antichi modi con cui la natura controlla la crescita demografica, e nessuna delle due è scomparsa dalla scena. Robert McNamara, presidente della Banca Mondiale e segretario della difesa degli Stati Uniti d'America, 2 ottobre 1979. I capitalisti, quando non sanno cosa fare col loro denaro, convincono i contadini di diversi paesi che ciò che occorre loro sono fucili per spararsi gli uni con gli altri. I contadini perciò comprano i fucili prodotti dalle fabbriche dalle quali i capitalisti traggono i dividendi e gli uomini di scienza il loro divertimento e la reputazione. I contadini cominciano a spararsi a vicenda in buon numero finché non sono stanchi, si bruciano gli uni gli altri le case, dopodiché mettono via i fucili e li conservano in torri, arsenali, eccetera, composti in trofei ornamentali. I vincitori portano anche qualche bandiera sbrindellata nelle chiese. Allora, i capitalisti li tassano entrambi, vincitori e vinti, perché paghino annualmente gli interessi sul denaro anticipato per i fucili e le polveri da sparo. Questo è ciò che i capitalisti chiamano sapere cosa fare con il proprio denaro. È ciò che tutti gli uomini del commercio chiamano l'economia politica pratica, che è cosa ben diversa da quella sentimentale. John Ruskin, Munera Pulveris, 1862. Le cose sembravano andare nella direzione giusta. Papà aveva un lavoro sicuro e mamma poteva lavorare se voleva, ma non era costretta. Alle famiglie di ceto medio bastava un solo stipendio per sopravvivere. L'assistenza dentistica e sanitaria era gratuita. I ragazzi andavano all'università senza chiedere un prestito in banca. Papà aveva 4 settimane di ferie pagate ogni estate. La maggior parte della gente aveva dei risparmi e pochi debiti. E la pensione di papà era messa da parte, dove nessuno poteva toccarla. L'avrebbe trovata lì quando sarebbe andato in pensione. Avevamo tutto questo perché la nostra maggior concorrenza nell'industria era stata ridotta in macerie. Ecco l'industria automobilistica tedesca. Ecco l'industria automobilistica giapponese. Credo possiate dire che è facile essere il numero uno quando non c'è concorrenza. Sì, certamente non tutto era perfetto. Non ci importava di dover sopportare un po' di questo e un po' di quello. Fin tanto che potevamo far parte del ceto medio. E contare sul fatto che i nostri figli sarebbero stati ancora meglio. Ci sembrava davvero un buon affare. Il capitalismo, nessuno era mai stato meglio. E poi, proprio nel bel mezzo di questa grande storia d'amore con il capitalismo, non vi sono nazioni. Non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema dei sistemi, uno. Vasto, immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale, dominio dei dollari, petroldollari, multidollari, elettrodollari, marchi, shekel, rubli, franchi, euro. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine delle cose oggi. Questa è l'atomica, è subatomica, è galattica struttura delle cose oggigiorno. Non esiste l'America, non c'è nessun Occidente, non esiste la democrazia. Esistono soltanto IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide, Google, Apple. Sono queste le nazioni del mondo oggigiorno. Scusate, ma voi di cosa credete che parlino i russi nei loro consigli di Stato? Di Karl Marx? Tirano fuori diagrammi di programmazione lineare, le teorie di decisione statistica, le probabili soluzioni, e computano i probabili prezzi e costi delle loro transazioni e dei loro investimenti proprio come noi. Noi non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie. Il mondo è un insieme di corporazioni, inesorabilmente regolato dalle immutabili, spietate leggi del business. Il mondo è un business e lo è sempre stato, fin da quando l'uomo è uscito dal magma. Ma i nostri figli, loro vivranno per vedere quel mondo perfetto in cui non ci saranno né guerra, né fame, né oppressione, né brutalità, ma una vasta ed ecumenica società finanziaria per la quale tutti gli uomini lavoreranno per creare un profitto comune, nella quale tutti avranno una partecipazione azionaria e ogni necessità sarà soddisfatta, ogni angoscia tranquillizzata, ogni noia superata. I would say this to everybody who's watching this. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is, get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big funds. So actually, what I would actually tell people, I want to help people. People can make money from this. It isn't just traders. What they need to do is learn about how to make money from a downward market. The first thing people should do is protect their assets, protect what they have. Because in less than 12 months, my prediction is the savings of millions of people is going to vanish. And this is just the beginning. Davanti a un vero scontro frontale tra le grandi corporazioni internazionali e gli stati. Questi ultimi subiscono interferenze nelle decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari, da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno stato. Per la loro attività non rispondono a nessun governo e non sono sottoposte al controllo di nessun parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l'interesse collettivo. In poche parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le grandi imprese transnazionali non solo attentano agli interessi dei paesi in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce anche nei paesi industrializzati in cui hanno sede. Siamo tutti potenzialmente ricchi, ma viviamo nella povertà. Andiamo in giro chiedendo credito, supplicando aiuti e, senza dubbio, siamo, paradosso tipico del sistema economico capitalista, grandi esportatori di capitali. La fiducia in noi stessi, che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità, ci dà la certezza che in questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti. Salvador Allende, all'Assemblea Generale dell'ONU, 4 dicembre 1972. Io non creo niente, io posseggo. E noi facciamo le regole, le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani a quest'ora, noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende, non la fanno mica perché conviene a loro, no. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccola lì, pum, te la portano. Sono portatori, gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo grande desiderio, questo grande bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura, non la cultura, le innovazioni, ecco, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove. Gli americani, sempre nel senso che a loro non fanno male, però te li attaccano. Alla fine della seconda guerra mondiale hanno portato jeans, scatolette, jeep, cultura, non la cultura, movimenti dinocolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia Europa, con i suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i suoi fiumi, i suoi violini, i suoi valzer. Strangers in the night, exchanging glances. E poi luci, e neon, e vita, e colori, e ponti, autostrade, grattacieli, aerei, cevingum. Non c'è popolo più stupido degli americani. La cultura non li ha mai attaccati, volutamente, sì. Hanno ragione loro a diffidare della nostra cultura, vecchia, elaborata. Leonardo, Shakespeare, Hegel, Voltaire, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Wah bam loo mam la bam bam to the boot oh root to the boot oh root. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film, eh? Bello, bellissimo. Ma guai se manca un po' di superficialità necessaria. sotto sotto c'è sempre un po' il western. Sì, anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi, anzi chiarissime. E non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E come mai sono loro? E qui viene il bello. Perché sono uomini liberi e ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, televisioni, progresso, squali. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti nemmeno per un attimo. No, no, no, no, no, no. Non ce l'ho con l'America, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci voleva mandare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. Uno scivolo, una buca, un'enorme buca col risucchio. Fruam! No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, no. All'inizio c'era anche il vento dell'est, che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di giustizia, di uguaglianza, l'internazionale socialista, la sua cultura... No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava, oscillava. Meglio di qui, no meglio di là, chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva. Ci si dibatteva fra due culture, ma no, quali culture? Due bulldozer, ecco. Poi, a un certo punto, senza preavviso, senza nemmeno che qualcuno ce lo dicesse, il vento dell'est smette e da quel momento, vroom, tutti in buca. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. E vroom, in buca. Quelli di centro, no. Quelli di centro, devo dire, sono sempre stati bucaioli loro. Ma dagli altri, non me l'aspettavo. La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità. È lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte, intesa come selezione naturale della specie, è la vittoria assoluta del mercato, è il trionfo totale dell'unica visione del mondo. La buca è l'America. Viva la buca! Ma come? Non eravamo diversi. Non si oscillava. Non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Niente. A me l'America non fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Neanche una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali, gli americani. Te la mettono lì, la libertà. È alla portata di tutti. Come una chitarra. Ognuno suona come vuole. E tutti suonano come vuole la libertà. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che di fronte solamente la natura

si falsifica il passato, il presente, si falsifica il futuro, si falsificano le statistiche, si finge di non possedere un onnipotente apparato di polizia capace di tutto, si finge di rispettare i diritti umani, si finge di non perseguitare nessuno, si finge di non temere niente. Si finge di non fingere. Václav Havel, Il potere dei senza potere, 1978. الشمس تضوي حكايا وسمر بعشوق وهجر منا. Cosa ci faranno con tutte queste rovine? Si dice che le isoleranno, si ci metteranno del filo spinato intorno e la gente andrà a visitarle. Scopo della visita: riuscire a immaginare cosa c'era prima. So, immaginare le strade, i bambini che giocano, le case, gli appartamenti stretti con pareti molto spesse, immaginare la scuola, il maestro, il forno, il piccolo chiosco che vendeva medicine, l'ambulatorio, anche il cimitero. A cosa corrispondono queste macerie? Prima di loro, prima delle urla, dei corpi crivellati di colpi, prima dei volti, delle schiene dritte, rovesciate, cosa c'era? Un minimo di vita. Si aspettava. Si sperava, dal campo si sperava di andare in una città vera, di avere una vita vera, una vita bella, semplice, corretta, senza lampima, senza urla. Eccola la domanda che verrà fatta ai visitatori. Io non faccio fatica a immaginare, no? Non ci sono rovine. C'è casa mia, la bottega dell'artigiano, c'è la fontana, c'è l'albero che mi dà ombra. Tutto, è tutto lì. Nella testa, nel cuore, in questa polvere che testimonia e accusa, anche se tutto è organizzato perché le macerie siano illeggibili. Il crimine è lì, anche se è ricoperto da questa polvere, tonnellate di polvere e silenzio. Il crimine è stato sotterrato, è stato sepolto nello stesso letto dei morti. Vittima, carnefice, vittima, carnefice, vittima, carnefice. Chi perseguita ha sempre ragione. Quando sciupa la vita, quando porta la morte al culmine del suo odio, instaura il regime dell'udienza a porte chiuse. Silenzio si lavora, pulizia si liquida. Niente testimoni, niente giudici. Taher Ben Jelloun, Jalin, un campo palestinese, 2002. l'appello a una patria nazionale per gli ebrei non mi attira molto. La giustificazione di questa posizione va ricercata nella Bibbia e nella tenacia con cui gli ebrei hanno anelato al ritorno in Palestina. Perché invece non dovrebbero, come gli altri popoli della terra, considerare come loro terra il paese in cui nascono e dove si guadagnano da vivere? La Palestina appartiene agli arabi nello stesso senso in cui l'Inghilterra appartiene agli inglesi o la Francia ai francesi. È sbagliato e disumano imporre agli ebrei agli arabi. Ciò che sta accadendo oggi in Palestina non può essere giustificato da alcun codice morale. I mandati non hanno alcuna giustificazione se non gli esiti dell'ultima guerra. Sicuramente sarebbe un crimine contro l'umanità imporre limitazioni agli orgogliosi arabi per far sì che la Palestina possa essere restituita agli ebrei, in parte o del tutto, come loro patria nazionale. La cosa più nobile sarebbe insistere su un giusto trattamento degli ebrei ovunque siano nati e cresciuti. Gli ebrei nati in Francia sono francesi, esattamente nello stesso senso in cui sono francesi i cristiani nati in Francia. Se gli ebrei non hanno altra casa che la Palestina, apprezzeranno l'idea di essere costretti a lasciare le altre parti del mondo in cui sono stabiliti? Oppure vogliono una doppia casa dove poter restare a piacimento? Non sto difendendo gli eccessi arabi. Vorrei che avessero scelto la via della non violenza per resistere a quella che giustamente consideravano un'ingiustificabile invasione del loro paese. Ma secondo i canoni accettati di giusto o sbagliato, nulla si può dire contro la resistenza araba di fronte a schiaccianti disuguaglianze. Gli ebrei che affermano di essere la razza eletta possono dimostrare il loro titolo scegliendo la via della non violenza, per rivendicare la loro posizione sulla terra. Ogni paese è la loro casa, inclusa la Palestina, non attraverso l'aggressione, ma attraverso il servizio amorevole. Gandhi. Articolo pubblicato su Le Vaharijan il 26 novembre 1938. Il danno prodotto dall'aver riversato una popolazione aliena su una terra araba forse non si riparerà mai più. Quello che abbiamo fatto, facendo concessioni non agli ebrei, ma a un gruppo di estremisti sionisti, è stato di aprire una ferita in Medio Oriente. E nessuno può predire quanto essa si allargherà. Lord Sydenham alla Camera dei Lord nel 1922. Possono morire. Possono morire. Non essendo il governo degli Stati Uniti d'America in alcun senso fondato sulla religione cristiana, giacché in sé non nutre alcun pregiudizio di inimicizia contro le leggi, la religione o la tranquillità dei musulmani, e dato che i detti Stati Uniti non sono mai entrati in alcuna guerra o atto di ostilità con alcuna nazione maomettana, le due parti dichiarano che nessun pretesto derivante da opinioni religiose produrrà mai un'interruzione dell'armonia che esiste tra i due paesi. Trattato di Tripoli, articolo 11, siglato tra il presidente George Washington e gli stati barbareschi il 4 novembre del 1796. E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, strano, strano. si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione è per la sua gravità sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Occorre contemporaneamente che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità di nazioni sia durevole, grave e certo. Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano dimostrati impraticabili o inefficaci, che vi siano fondate condizioni di successo e che il ricorso alle armi non provochi mali o disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione, grandissimo peso ha la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Questo è l'elenco degli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della guerra giusta, Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 2307 seguenti, 15 agosto 1997. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gesù Cristo, tanti auguri a te. Siamo sani da questa avventura, per quanto afflitti, impoveriti, invecchiati. E la magia di un supremo taglione ci desse il potere di chiamarli a rispondere uno per uno. Loro, i caporioni del crimine universale che sopravvivono sempre. E potessimo rinchiuderli nelle loro chiese. E lì, come hanno fatto i vecchi serbi, estrarre a sorte una condanna a morte ogni 10. Ma poi non ucciderli, no, no, schiaffeggiarli e dir loro come? Non sapevate? Gaglioffi, non immaginavate che a seguito di una dichiarazione di guerra, tra le possibilità innumerevoli di orrore e di vergogna, c'è anche quella che ai bambini manchi il latte, ai cavalli la biada, e che persino lontano dagli spari si può diventare ciechi per l'alcol metilico se così fosse stabilito dal piano di guerra dell'usura? Come? Non misuravate la sventura di una sola ora d'angoscia per una prigionia che dura degli anni, di un sospiro della nostalgia, dell'amore, lordato, conculcato, assassinato. Non eravate neanche capaci di immaginare quali inferni si dischiudono ad ogni attimo di tormento delle madri che tengono l'orecchio notte e giorno, attendono per anni la morte dell'eroe. E non vi siete accorti di come la tragedia si trasformasse in farsa? Non vi siete accorti di come il più piccolo provvedimento della vostra ossessione avrebbe impresso alla dignità umana un indelebile marchio di infamia? E vi era sfuggito che se aveste messo un uniforme a tutti gli uomini, questi poi si sarebbero dovuti salutare incessantemente l'un l'altro. E non pensavate che questo gesto non sarebbe stato di colpo altro che quel tocco alla fronte che esprime il dubbio sulla reciproca sanità di mente? Venite voi maestri della guerra, voi che costruite tutte le armi, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, Voglio solo che sappiate che io posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che create solo per distruggere, voi che giocate col mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nelle mie brani e poi correte via quando volano veloci le pallottole. Come Giuda dei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta, voi volete che io creda, ma io vedo. Vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello, come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il numero dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue scorre dai corpi dei giovani e si mescola nel fango. Voi avete causato la più incredibile paura che mai possa spargersi. La paura di portare figli in questo mondo. E poiché minacciate il mio bambino mai nato e senza nome, voi non valete il sangue che vi scorre nelle vene. Ma chi sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono troppo giovane, direte che non ne so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono troppo giovane. So che non c'è Cristo che perdonerebbe quello che fate. E voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che arriverà un giorno, quando la morte chiederà il suo pedaggio, che voi vi accorgerete che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno per ricomprarvi l'anima. E spero che moriate e che la vostra morte arrivi presto, e seguirò la vostra bara in un pallido pomeriggio e guarderò mentre vi calano giù nella fossa, e resterò lì sulla vostra tomba finché non sarò sicuro che siete crepati per davvero. Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide me behind. Tutti gli esseri umani riconoscono il diritto alla rivoluzione, vale a dire il diritto a rifiutare obbedienza, a resistere al governo quando la sua tirannia, la sua inefficienza sono grandi e intollerabili. Eppure quasi tutti dicono che attualmente non ci troviamo in quella situazione. Tutte le macchine governative presentano degli attriti. È possibile che si produca una quantità di effetti positivi tale da controbilanciare quelli negativi, ma in ogni caso è un errore agitarsi a causa di ciò. Ma quando l'attrito giunge ad avere strumenti suoi propri e l'oppressione e il ladrocinio sono organizzati, io sostengo che dobbiamo gettare via quella macchina immediatamente. In altre parole, quando un sesto della popolazione della nazione che si è impegnata ad essere il rifugio della libertà è composta da schiavi, e un intero paese è ingiustamente conquistato e invaso da un esercito straniero soggetto a legge marziale, io penso che non è troppo presto per le persone oneste ribellarsi e fare la rivoluzione. Ciò che rende questo dovere ancora più urgente è il fatto che il paese invaso non è il nostro, ma il nostro è l'esercito invasore. Henri David Thoreau, sul dovere della disobbedienza civile, 1848. Say

I negozianti tengono il fucile nascosto sotto al bancone, i teppisti scorrazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria è ormai irrespirabile, che il nostro cibo è immangiabile, noi ce ne siamo seduti davanti alla televisione, mentre il nostro cronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Noi sappiamo che le cose vanno male, più che male, è la follia, è come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più, cioè siamo chiusi in casa. Lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo, sempre più piccolo. E diciamo solamente, ma almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti. Lasciatemi il mio tostapane, la mia vecchia bicicletta, la mia TV, e io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. No, io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, che scriviate al vostro senatore, anche perché io non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non lo so che cosa bisogna fare per combattere la crisi, l'inflazione, i russi, la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire: io sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Sì, io voglio che voi vi alzate dalle vostre sedie adesso. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie, sì. Voglio che vi alziate, che andiate a casa, che apriate le finestre, mettiate fuori la testa e urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sì, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Vuoi salire? Sali. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Chi vuol salire salga a dirlo. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Thank you. dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono, tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà, chissà cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è qualcuno che non sa più cosa è un uomo. C'è qualcuno che non ha rispetto per nessuno. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non mi muovo, c'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci sono, tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà, chissà cosa, chissà. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non mi muovo, c'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci sono, c'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci credo, c'è chi dice no, c'è chi dice no. E io sono un uomo. Progetto che nasce nel 2009 così, da un gruppo di artisti, sognatori, pazzi, folli, che fondamentalmente volevano fare massa critica e non volevano rimanere soltanto a casa a scrivere sulle proprie tastiere, sul proprio Facebook, e comunque provare a fare massa critica, a fare rete, a unirci e provare a fare qualcosa di diverso, uscire di casa, come dice un monologo bellissimo, e stare insieme e soprattutto fare della memoria un valore. Infatti il progetto è Raccolta indifferenziata della memoria, perché i cicli storici si ripetono continuamente, ma se noi non ci ricordiamo quello che è stato fatto o quello che è accaduto poco tempo prima, poi continueranno a fregarci con la solita solfa. Il progetto nasce nel 2009 da 9-10 attori, poi improvvisamente esplode, arriviamo ad essere addirittura una settantina. Viene fatto negli spazi occupati, ma viene fatto anche nelle scuole, nelle strade, nei teatri. Viene fatto in Sicilia, a Torino, a Milano, addirittura sui tetti di Parigi, che è una cosa meravigliosa. New York, grazie. Allora, innanzitutto, scusatemi, vado un po' random così. Ringraziamo Fulvio, il nostro tecnico, che è il più giovane di tutti noi, che è qua da stamattina. E che a un certo punto gli ho detto: sarai stanco morto? E lui mi ha detto: sì, però mi sto divertendo un sacco. E quindi grazie mille, grazie a tutti, grazie al nostro DJ Tuppi, che è venuto direttamente dalla Parigi dello Ionio, dalla piccola Bari. È un piacere, grazie a Brancaleone che ci ha ospitato, infatti questa è stata un po' la nostra casa per tanti anni, grazie per aver creduto in noi e grazie a tutti voi che avete preso, insomma, l'impegno di uscire di casa e venire a sentirci. È sempre un grande piacere, magari sarà un nuovo riprendere il cammino, quello che noi abbiamo sempre detto. Grazie a Marco Meloni, scusate, il padre putativo di questa cosa qua, che è quel signore là dietro che vedete coi capelli differentemente neri, bianchi, che è colui che mette insieme tutti questi frammenti, no? Che fa questo rave teatrale, come avrete visto, e compone. Quindi io non oso immaginare quanti libri lui abbia potuto reggere per andare a prendere pezzi così della letteratura più svariata. E quello che io ci tengo a dire è che questo non è, noi non siamo assolutamente gelosi di questo prodotto, noi vogliamo che questo prodotto si espanda, che questo prodotto vada per tutto il mondo. Quindi se qualcuno di voi questa sera si è sentito particolarmente toccato, emozionato, ha detto: cazzo, sarebbe bello farlo a Pizzo Calabro o a Vighizzolo di Cantù, paese a caso, e lo potete fare, ci potete contattare, ci trovate, noi vi daremo il materiale. Ma perché no? In Toscana? Perché già si è fatto, mi pare. Si è fatto in Toscana. E quindi là fuori troverete il libro, uno dei libri delle varie edizioni che sono state fatte, e con svariati brani, non tutti, perché capirete, avrà 10 terabyte di memoria. E quindi se qualcuno di voi, anche qua di Roma, magari giovane, sente l'impulso di dire: lo voglio fare col mio collettivo scolastico, lo voglio fare in occupazione, lo voglio fare dove volete, ci contatta, noi vi diamo l'esperienza di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, vi supportiamo, vi diamo musiche, video, non siamo assolutamente gelosi, siamo per la diffusione. Concludo buttandolo in mezzo così in caciara. Una delle lezioni più tristi della storia è questa: se siamo stati ingannati abbastanza lungo, tendiamo a rifiutare tutte le prove degli inganni di cui siamo stati vittime. Non abbiamo più alcun interesse ad accettare la verità. L'inganno ci ha catturato completamente. È troppo doloroso riconoscere persino con noi stessi di essere stati abbindolati. Una volta che dai a un ciarlatano un potere, non lo riavrai quasi mai indietro. Così i vecchi inganni tendono a persistere mentre si rimane vittime dei nuovi inganni. Carl Sagan, Il mondo infestato dai demoni, 1995. Viva le voci nel deserto, viva il Branca! Dimmi come fai ad accettare tutto questo. Dimmi come. E ora, per chi si ferma, Tuppi farà un DJ set che ci fa ballare fino alle 3. Presto invece, amico, è già tardi. Ce l'ha messa in c***o già da tempo sti bastardi. È da tempo una rivoluzione, aspetto. Ma qui quello che conta è sempre. Il rave teatrale del collettivo Voci nel Deserto. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Antonio Rezza e Flavia Mastrella per presentare la trilogia Rezza Mastrella a Roma, Teatro Vascello, dal 12 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Ben trovati! Ciao! Ciao, ciao! Si tratta di 3 lavori: Amistad dal 12 al 17 dicembre, Photo Finish a 20 anni dal debutto dal 19 al 31 dicembre e Hubris, l'ultima produzione teatrale, dal 3 al 14 gennaio. Ci presentate un po' questi 3 lavori? Sì. Amistad è la contaminazione tra Fratto X, che è lo spettacolo portante di questa opera, e la poetica letteraria di Fabrizio De André, suggeritaci da Dori Ghizzi.